Il mio Longo Fodò, Colle Santa Lucia e Cortina, in provincia di Bolzano. Parlerò del crearsi dei loro miti, della loro memoria storica, appunto, delle loro scelte politiche e culturali di fronte ai grandi avvenimenti del XX secolo. Ma prima permettetemi un breve richiamo personale. Io sono originaria della comunità ladina di Fodò Mlivina Longo, uno dei tre comuni ladini in provincia di Belluno, i meno tutelati quindi nell'ambito della Ladinia tradizionale. E ho sempre saputo di essere ladina, nel senso che me lo è stato comunicato dalla famiglia e dalla comunità di paese. Fin da piccola, cioè, mi è stata trasmessa la coscienza della differenziazione di storia, di cultura, di lingua. Noi siamo ladini, mi si diceva, non siamo italiani. E questo con una, a volte leggera, ma a volte più marcata, differenziazione dal mondo italiano e simpatia per il mondo tedesco. Infatti la storia ladina corre parallela a quella tirolese, spesso si confonde con essa, come vedremo. Naturalmente poi, uscendo dalla comunità d'origine, ci si scontra, ci si confronta con altre identità. Il messaggio iniziale viene rivisitato e messo in discussione. E quando ne ho avuto la possibilità, la capacità, ho cercato di capire in cosa consisteva quel bagaglio identitario che mi era stato trasmesso con tanta cura. Com'era nata, cioè, quella coscienza ladina nella mia comunità? Qual era la memoria che la fondava e la giustificava? Come si era costruita quella convinzione di essere nazione fra due nazioni, cioè fra quella italiana e quella tedesca. E da questo bisogno di far chiarezza su questa prima identità trasmessami quasi fosse un patrimonio genetico, sono nate appunto le mie ricerche su questo campo, sui ladini. Questa trasmissione di una coscienza ladina da una generazione all'altra funzionò come fenomeno comunitario, direi fino agli anni 60. Dopodiché fu la scelta di singole famiglie e da 20 anni in qua, come vedremo, il quadro dell'identità ladina si è via via è cambiato, si è complicato. Questo bisogno di fissare la propria identità trasmettendola di generazione in generazione, oralmente, era nata da un trauma, dal trauma della Prima Guerra Mondiale, che segnò il passaggio della comunità ladina insieme a quella sudtirolese, trentina, dal dominio secolare dell'impero austro-ungarico al nuovo Stato italiano. Stato italiano in cui si vide imposta a livello politico, scolastico, ufficiale, una storia che non era la propria, ma che era la storia italiana, era quella del risorgimento, era quella della redenzione. È l'impatto con la diversità, quindi, da cui ci si difende facendo barriera, che spinge a coltivare la propria specificità, a farla diventare un fenomeno di massa, da fenomeno d'élite, come era fino più o meno al 1915. I sentirsi percepiti, sentirsi privati dal potere dominante, della propria storia, delle proprie tradizioni. Oltre a questa accelerazione nella presa di coscienza identitaria, ha portato anche all'interno delle comunità un certo vittimismo, direi. Si legge, cioè, la storia vedendo gli errori degli altri, che senz'altro ci sono, ma non si vedono i propri, e ci sono anche questi. Questa assolutizzazione della propria memoria nelle comunità ladine, con conseguente carenza di senso critico, ha l'effetto di acuire ulteriormente il confine fra interno ed esterno, ha l'effetto di chiudere la comunità, aumentando i conflitti sul piano ideologico e culturale, e questo succede almeno sino agli anni 60. Dopodiché il tabù un po' alla volta cede, l'identità viene a poco riconosciuta ed accettata ufficialmente, di più e prima a Bolzano e a Trento, ma un po' alla volta anche nel Veneto. Basti pensare alle leggi regionali, di tutela, di aiuto, diciamo, alla cultura ladina che si hanno a partire dagli anni Ottanta. E man mano che l'identità ladina viene accettata anche dall'esterno con una legislazione di salvaguardia, la sua memoria, la memoria ladina, si complica. Da unica ed assoluta si trasforma in una pluralità di memorie. Anche all'interno del mondo ladino, che ha sviluppato dalla Prima Guerra Mondiale sino almeno agli anni 50 una coscienza, una memoria apparentemente molto compatta, emergono le differenze. Differenze rappresentate da memorie individuali, da memorie di piccoli gruppi, a dimostrare che la storia, nemmeno lì, nelle valli ladine, è stata vissuta in maniera univoca. Emergono quindi elementi contraddittori, dialettici. La storia si vivacizza. Si vedono ora le ombre e non solo le luci. Questa demitizzazione, che non vuol certo dire rifiuto dell'identità, ma semplicemente una sua problematicizzazione e anche una sua vivacizzazione, questa demitizzazione, dicevo, non era possibile nel momento della rivendicazione pura, in quanto sarebbe stata presa, percepita come un tradimento, come una minaccia alla vita stessa della comunità. Ma appunto negli ultimi decenni è stato possibile riprendere il passato, studiarlo in maniera più critica, direi. Ed ecco alcuni accenni alla storia ladina nel corso del Novecento. Le valli dolomitiche sono oggi divise in tre province, ma non è sempre stato così, perché questa spartizione ha avuto luogo a partire dal 1923, poco dopo l'annessione all'Italia. E questo per smorzare le richieste di autonomia, di autodeterminazione che i ladini nel primo dopoguerra portarono avanti insieme ai sudtirolesi di lingua tedesca, a tutela della propria specificità. Questa divisione è stata considerata dai ladini come la causa determinante, come la colpa dell'incrinarsi della loro comunione culturale, culturale oltre che politica, e comunione che era stata vissuta dalla parte elitaria, diciamo, della popolazione fino al 1915, ma non solo. Era stata riconosciuta anche dal mondo culturale tedesco, almeno a partire dalla seconda metà del XIX secolo. Unità politica, quindi, unità politica, amministrativa e culturale fino al 1903. Questo è il grande rimpianto della memoria storica ladina e questo è anche il grande mito ladino, in cui naturalmente si è portati, come in ogni mito, ad accentuare gli elementi in comune nelle valli e a sottovalutare le diversità che pure c'erano. Oltre all'unità ladina, di una Ladinia al di sopra dei confini politici e amministrativi, del mito fa parte anche l'alleanza con il Tirolo tedesco, alleanza costruitasi a partire da fine Ottocento, consolidatasi durante la Prima Guerra e mantenutasi sino almeno al secondo dopoguerra, ma ancora oggi sostenuta almeno da una parte della popolazione ladina. La memoria storica ladina, tramandatasi di generazione in generazione, si potrebbe farla risalire alle guerre napoleoniche, quando le valli combatterono tutte insieme, ecco l'unità ladina, unitamente ai tirolesi, ecco l'alleanza fra i due popoli, combatterono contro un nemico comune, esercito francese, e crebbe infatti in quella occasione fra i ladini la coscienza di avere la stessa lingua, le stesse usanze, gli stessi valori, mentre si rinforza il legame con il mondo sudtirolese di lingua tedesca, di cui si condivide il conservatorismo politico e sociale. E quando a fine Ottocento rafforzarsi del concetto ideale di nazione richiederà i suoi miti, è proprio dalla lotta contro i francesi che si attinge la costruzione di uno dei simboli più suggestivi del mondo ladino. Caterina Lanz, la ragazza originaria di Marebbe, che secondo una tradizione oggi messa in dubbio, contestata, avrebbe messo in fuga i francesi minacciandoli con un forcone davanti alla chiesa di Spinges presso Bressanone. Ecco, questa ragazza, Caterina Lanz, assurge ad eroina del mondo ladino ed il suo culto assume connotazioni molto simili a quelle del tirolese Andreas Hofer. La figura di Caterina Lanz è funzionale al crescente senso di identità ladina, consolidata, si dicevamo, soprattutto nell'élite, già prima della guerra del 15-18, in quanto Caterina è l'elemento di unione fra le varie valli per le sue vicende biografiche. Infatti nasce a Marebbe, vive a Colle Santa Lucia, muore a Livinallongo. Nel consolidarsi del mito ha una parte importante la condivisione con il Tirolo dei valori come patria e religione. La lotta condotta insieme contro Napoleone, monito a difendersi insieme da un'altra minaccia che si profilava all'orizzonte, quella italiana. Siamo agli inizi del Novecento. I ladini erano senz'altro uniti ai sudtirolesi in lingua tedesca da legami di mentalità, dal culto dei medesimi valori e da non pochi elementi anche di gestione della vita economica. Ad esempio il maso chiuso esisteva ed esiste anche in alcune valli ladine. Ma i rapporti fra le due comunità, così come rimangono nella memoria collettiva, costruitasi appunto dopo il trauma dell'annessione all'Italia, risentono spesso di una nostalgica idealizzazione. Infatti, in questi ricordi, non vi appare nessuna tensione fra i due gruppi, su tirolese e ladino, mentre sappiamo ormai che tale legame non era senza contrasti, almeno per i ladini che dalle valli più povere emigravano verso il Sud Tirolo. C'era un'emigrazione sia minorile che adulta, continua almeno fino al periodo del fascismo, emigravano cerca di lavoro e come in ogni emigrazione naturalmente anche per questi ladini emigranti c'erano conflitti economici, sfruttamento, discriminazioni dovute all'appartenenza ad un gruppo sociale linguistico differente, più debole economicamente, e quindi in lei le contraddizioni chiaramente c'erano. Ma pure nella pubblicistica in lingua tedesca post-annessione, in un atteggiamento che perdura tuttora, si idealizzano i rapporti sociali fra ladini e tirolesi, assolutizzando una comunione di idee, di stile di vita fra di essi, mentre da parte italiana, a lungo, e direi senz'altro fino al 45 più o meno, si ignorò pressoché tutto quello che riguardava la vita delle popolazioni ladine, il loro senso di identità, la loro storia. Infatti, fino alla Seconda Guerra Mondiale, non risulta che ci siano delle pubblicazioni che andassero oltre il fine nazionalistico di dimostrare l'italianità dei ladini sulla base della loro parlata, considerata semplicemente un dialetto italiano. Se, come abbiamo detto, la coscienza dei ladini ebbe una sua evoluzione positiva e di massa dopo la prima guerra, come difesa dall'assimilazione italiana, qual era però il modo ladino di presentarsi, di autorappresentarsi fino al 1915? Le valli ladine erano geograficamente isolate, erano piccole, circa 20.000 abitanti, era una popolazione però più rurale, mancava un ceto borghese e probabilmente per questi motivi mancava anche un progetto unitario, politico e culturale di valorizzazione della propria specificità, di cui al momento pochi erano consapevoli. Erano però valli strategicamente molto importanti, data la loro posizione nel Tirolo, fra i due gruppi italiano e tedesco, che per avere forza nelle loro rivendicazioni, nel sostenere le loro rivendicazioni politiche, avevano tutto l'interesse a comprendere, almeno statisticamente, anche questa piccola minoranza. Per cui i ladini vennero contesi dai due gruppi e all'interno delle valli si diffusero, si attivarono, sino alla prima guerra, associazioni rispettivamente pangermanistiche e filoitaliane per, appunto, germanizzare e italianizzare. La simpatia dei ladini, per i motivi che abbiamo detto, andò soprattutto alle associazioni tedesche, al Tiroler Volksbund, ad esempio, nella cui opere si videro anche un vantaggio economico, mentre non colsero l'intento snazionalizzante che ne era alla base. Ci fu, è vero, già allora, all'inizio del Novecento, qualche lodevole tentativo di chiarire la propria identità, di distanziarsi di ambedue i gruppi circostanti. e questo soprattutto da parte dell'Unione Ladina, associazione formata a Innsbruck 1905, che aveva per motto di tenere uniti i ladini, e il motto era: i ladini sono ladini, non sono né tedeschi né italiani. E aveva lo scopo di valorizzare la loro cultura, ma i tempi non erano ancora propizi, le spinte nazionalistiche erano troppo forti all'intorno, perché una richiesta di autonomia ladina, di equidistanza dai due gruppi italiano e tedesco, potesse aver successo. La prima guerra mondiale travolse tutti e dopo tutto era mutato, tutto era cambiato. Nel 1919 c'è l'annessione all'Italia, insieme all'Alto Adige, e questo impatto forzato con la realtà italiana, con la quale allora non si percepivano affinità se non linguistiche, fece accelerare, come abbiamo detto, la presa di coscienza etnolinguistica dei ladini e insieme con essa proseguiva la costruzione dei simboli e dei miti in cui riconoscersi. Ed inoltre, ora che il confine si era spostato al Brennero, si rinforzavano ancor più i legami con il vicino Sudtirolo di lingua tedesca, di cui si condividevano ora più che mai le sorti, e al quale ci si univa nelle ripetute richieste di autodeterminazione e di autonomia rivolte nel primo dopoguerra alle autorità internazionali ed italiane. Le motivazioni adotte a sostegno di queste richieste erano di tipo etnico: siamo ladini; storico: siamo abitanti del Tirolo; economico: i nostri interessi sono legati al mondo di lingua tedesca. In queste richieste i sostenitori dell'italianità delle valli ladine, come Ettore Tolomei, non videro nessun fondamento storico, nessuna verità, ma solo la conseguenza dell'influenza dei condizionamenti dei partiti autonomisti di lingua tedesca, dei partiti sudtirolesi. E questo nonostante i ladini usassero i loro mezzi per evidenziare la propria specificità. Ad esempio, il 5 maggio del 1920, sul Passo Gardena, sventola per la prima volta la bandiera ladina, azzurra, bianca e verde. E nel censimento della popolazione del 21, l'unico in cui a tutti i ladini fu concesso di dichiararsi tali, colsero l'occasione per proclamarsi ladini fra il 95 e il 100% degli abitanti delle valli. Ma questa pubblica dichiarazione di ladinità ufficiale non portò nessun vantaggio, in quanto i ladini non ebbero nessun riconoscimento e appunto dal 23 cominciò la loro frammentazione. Bisogna forse dire che le frequenti affermazioni ladine di fratellanza con il Sudtirolo, per quanto storicamente fondate naturalmente, contribuirono però probabilmente sia a ritardare il processo di crescita di un'autocoscienza ladina autonoma all'interno delle valli, sia compromisero, questo senz'altro, compromisero l'accettazione della loro esistenza come popolo autonomo da parte dello Stato italiano. I ladini dolomitici, ad eccezione della Val Gardena, che conobbe nell'anteguerra un forte processo di germanizzazione, sotto l'Austria usavano la lingua italiana nelle scuole, negli uffici, per cui sotto il fascismo non fu tanto la questione linguistica che suscitò le reazioni ladine, come invece avvenne nel Sudtirolo di lingua tedesca, quanto il fatto che venne meno ogni rispetto per la propria diversità di usi e costumi, di abitudini, per i propri bisogni, insomma, per i propri interessi. Il malcontento per il regime italiano fascista, l'unico conosciuto in pratica dopo l'annessione, inoltre l'impianto per l'Austria, Austria mitizzata naturalmente nella memoria storica ormai consolidatasi, oltre alle promesse della propaganda nazista, ecco, questi furono i principali motivi che trascinarono i ladini di nuovo insieme ai sudtirolesi di lingua tedesca nell'avventura delle opzioni del 39, su cui non mi soffermo perché molto nota. Sia il dramma delle opzioni che il periodo 43-45, vissuto nell'ambito dell'Ampenvorland, sotto diretta amministrazione nazista, gestita anche nelle valli ladine da optanti locali, provocarono lacerazioni profonde nella comunità. e contemporaneamente pregiudicarono l'esito delle richieste ladine di autonomia che si riproporranno nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra. L'opzione per il Reich, complessivamente rilevante, considerato che si trattava di paesi di lingua ladina e non tedesca, e inoltre la mancanza di un movimento di resistenza contro nazismo e fascismo, come era invece successo, che si era invece sviluppato nelle valli confinanti del Bellunese. Ecco, questi due motivi divennero dal 1945 in poi, per le autorità italiane, venete, bellunesi, la prova della presunta vera anima dei ladini. Ladina in apparenza, in realtà anti-italiana, antidemocratica, proprio come quella attribuita su tirolesi di lingua tedesca. E dal 1945 al 1948 si considerò, in pratica senza eccezioni, ogni richiesta ladina di autonomia o di annessione a Bolzano per le valli comprese in provincia di Trento e Belluno, come una nuova prova di, come una nuova manifestazione di pangermanesimo, di separatismo, secondo gli schemi già noti dal primo dopoguerra. Questa proclamata alleanza con i tirolesi, di nuovo, da un lato dava forza numerica alle richieste ladine, i ladini erano pochi, ma dall'altro le rendeva sospette di fronte alle autorità italiane e minava anche, direi, dall'interno la fiducia dei ladini di essere in grado di gestirsi autonomamente, da soli, senza l'appoggio di un alleato più forte. Comunque ogni speranza di ritrovare l'unità in provincia di Bolzano ben fu delusa. Lo statuto d'autonomia del 48 sancì la divisione dei ladini dolomitici in tre province. Cominciò così la differenza di trattamento fra i tre gruppi. Privilegiati in quanto tutela, quelli della provincia di Bolzano, Badioti e Gardenesi. I Fassani in provincia di Trento si batteranno a lungo per i loro diritti, qui sarebbe interessante seguire le loro vicende dal 50 in poi. E soprattutto nell'ultimo decennio ottennero sensibili, rilevanti concessioni. I ladini dei tre comuni del Bellunese non ebbero invece alcun riconoscimento giuridico, finché dagli anni 80 ad oggi ottennero da parte della Regione Veneto, come dicevo all'inizio, una legge per favorire la loro cultura. E inoltre nel 1999 è stata approvata dallo Stato la legge quadro 482, legge che prevede misure riguardanti l'introduzione del ladino nelle scuole, nei mass media, eccetera, anche nel bellunese. I legami fra i ladini dolomitici si sono via via allentati dal secondo dopoguerra fino ad oggi, a causa di questa ripartizione in tre province e tra i diversi trattamenti, ma non sono cessati. Oggi come oggi uniscono ancora le valli ladine legami soprattutto culturali, linguistici, progetti in comune fra i cinque gruppi, divulgati tramite la USH dei Ladins, settimanale in cui sono rappresentate tutte le valli ladine ex austriache. Negli ultimi 20 anni si è avuto uno sviluppo imprevisto per quanto riguarda l'identità ladina e la sua memoria. Il bisogno del ripristino delle differenze, dei confini, rispetto alla tendenza unificante dei processi di omogeneizzazione culturale in corso, ha suscitato ovunque una grande attenzione al recupero di dialetti, di usi e costumi, soppiantati ormai dalla modernità e divenuti un nostalgico ricordo. E sull'onda di questa esigenza emotiva di recupero del passato, popolazioni confinanti con i ladini dolomitici, cioè Cadorini e Agordini, provincia di Belluno, e poi anche Nonesi e Solandri, provincia di Trento, hanno scoperto di avere una base linguistica ladina venetizzatasi col tempo ed hanno colto l'occasione per costruirsi su questa base un'identità che li differenziasse dalle altre popolazioni bellunesi e trentine e li avvicinasse invece ai ladini del Sella, rendendoli partecipi della loro specificità. Mi riferisco qui in particolare a Gordino e Cadore, zone in cui questa aspirazione a crearsi una nuova identità ladina è nata per prima e con maggior determinazione. Nascono quindi in queste valli nuove associazioni con lo scopo di costruirsi o riscoprire, come esse dicono, una propria particolarità ladina e una memoria storica naturalmente che la fondi e la giustifichi. Ma non c'è molto tempo per portare avanti l'impresa, perché bisogna approfittare del momento politico-culturale favorevole, tanto più che si può godere dell'appoggio dell'amministrazione provinciale di Belluno a questa operazione di espansione della ladinità. E questo perché? Ma molto semplice, perché se i comuni ladini in provincia di Belluno, invece che essere tre, fossero stati alcune decine, questa poteva essere l'occasione per far valere, ostentando la propria ampia specificità ladina, per far valere il proprio diritto, il diritto della provincia a godere di quell'autonomia e quindi di quella molteplicità di risorse e di opportunità garantite alle province vicine di Trento, Bolzano, Udine e negati invece a Belluno. E quindi un bisogno politico legittimo, direi, per la provincia di Belluno, come quella di essere equiparata alle province vicine, ha sostenuto un bisogno locale come quello di recupero del proprio passato o di costruzione di una propria immagine del passato, e lo ha incoraggiato in una direzione che fosse funzionale al futuro della provincia tutta. Sarebbe interessante studiare come negli ultimi 20 anni ci si è mossi per costruire a tappe forzate questa nuova identità rispetto a quella veneta in cui ci si era immedesimati sino a quel momento. Molti elementi sono presi in prestito naturalmente dai ladini dolomitici. Nella loro reazione a questo furto riesce a bloccare il processo. Ci si appropria ad esempio della bandiera ladina, bandiera simbolo di tutte le lotte dei ladini dolomitici per il loro riconoscimento proprio contro coloro che adesso se ne impossessano. Si costruiscono costumi tradizionali simili a quelli ladini, si compilano vocabolari chiamati ladini e via di questo passo. E contemporaneamente si oblia quella parte della propria storia veneta che non è più funzionale ai bisogni identitari del momento. Questo processo, il processo è tuttora in corso, il suo esito è ancora incerto. Non si sa cioè se questa nuova autocoscienza, sviluppatasi ad un secolo di distanza da quella dei ladini dolomitici e portata avanti al momento da gruppi molto limitati ma anche molto agguerriti, verrà fatta propria dall'insieme delle popolazioni agordine e cadorine, diventerà cioè una coscienza di massa. Questo fenomeno ha comunque avuto i suoi effetti sulla concezione identitaria anche dei ladini dolomitici, soprattutto su quella dei tre comuni di Vinallongo, Colle Santa Lucia e Ampezzo. E direi che ha contribuito a vivacizzarli, a far discutere, a confrontarsi, a riflettere su di sé, sulla propria storia. E questo, secondo me, è un aspetto positivo. L'esito, comunque, sia per gli uni che per gli altri, è ancora da vedersi. L'identità non è qualcosa di dato, ma muta nel tempo, può assumere anche direzioni imprevedibili. Grazie.